La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. La settimana scorsa, all'alba di un giorno qualunque, a Milano, un giovane ghanese ha ucciso 3 persone, a caso, le prime incontrate per strada. I media hanno parlato di follia omicida, hanno intervistato la gente del quartiere sotto shock, un quartiere alla periferia della città, hanno parlato della storia delle vittime, dei parenti, degli amici, di vite sconvolte, di città impaurite. Il rispetto del dolore per chi ha perso il figlio, il padre, l'amico è dovuto e imprescindibile. Ma non è stata spesa una parola sul giovane nero, che, dicono sempre i media, parla solo un dialetto del Ghana e un inglese stentato. Nessuna si è chiesto come mai passasse la notte nei ruderi di Villa Trotti, un edificio abbandonato a poca distanza dal luogo dei fatti. Nessuna si è domandato il perché di 2 richieste d'asilo respinte e di due decreti di espulsione pendenti, o come e dove trovasse da mangiare o perché fosse qui in Italia. Se la disperazione, l'impotenza, la rabbia, il dolore per una vita che non è vita, per un'esistenza terribile, si trasformano in violenza contro se stesse e se stessi, come è successo per una bruca che si è impiccata a Ponte Galeria alla vigilia del rimpatrio, allora è una notizia che strappa qualche poverina e basta lì. Se si trasformano in autolesionismo, come per quella donna che sempre in un CIE si è cucita la bocca proprio per poter gridare al mondo che esistono persone senza storia, senza presente, senza futuro e senza possibilità di parola, allora viene spedita in un centro psichiatrico perché non è disperata, ma è solo pazza. Se poi i migranti e le migranti affogano in mare, diventano forse un numero nelle statistiche di qualche associazione e le madri che li cercano non hanno risposta. Ma se questa rivolta si trasforma in aggressione verso un mondo che è responsabile di tutto questo, allora si chiedono leggi securitarie, si chiede l'esercito nelle strade, come ha fatto il Comune di Milano, che nella persona del sindaco ha anche avuto l'impudenza di costituirsi parte civile contro l'immigrato. Nessuna e nessuna che abbia avuto il coraggio di dire perché persone come Kobobo, questo è il nome dell'immigrato ghanese, sono qui, perché sono costrette a emigrare da paesi in cui le potenze occidentali portano via tutto, persino l'aria, l'acqua e la terra che non è più abitabile. Nessuno o nessuna che si sia chiesto che cosa può pensare di noi una persona costretta a vivere, a fare la fame lontano da casa, senza un posto dove dormire, dove mangiare, priva perfino della dignità. Mi chiedo se le 3 persone che sono state uccise si siano mai domandate che cos'è un CIE, se abbiano mai alzato lo sguardo a via Corelli per sapere cosa ci fosse là dentro, se abbiano mai speso un minuto per condannare le guerre neocoloniali. Mi ha colpito molto il fatto che Kobobo abbia ucciso con un piccone. Non è un'arma, è un arnese da lavoro, come quelli dei contadini medievali che ammazzavano i signori e i loro servi e i loro animali e le loro donne e i loro figli, con i forconi, le falci, i martelli, in una resa dei conti tanto violenta quanto la disperazione e l'orrore in cui vivevano. Erano le jacquerie. E anche questa è stata una jacquerie, non collettiva ma personale, non privata ma personale. Invece di invocare sicurezza per paura del ritorno della notte dell'uomo nero, come ha detto un telegiornale di Stato alla fine del servizio, sarebbe il caso che la gente si guardasse attorno e cominciasse a chiedersi la ragione delle cose, perché, come canta De Gregori nella canzone del maggio, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Ciao.